sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Io questa mattina mi ero riproposto assieme a Fabrizio Intonti di parlare di donne singole e singolari. Ci eravamo pensato, ieri abbiamo detto è una giornata nebbiosa, è un periodo terrificante e quindi è bene che parliamo di qualcosa che riscaldi in animo e faccia venire fuori un raggio di sole in queste giornate così tristi. Parliamo delle donne singole. Le donne singole ci ispirano, sono persone singolari, se ne è parlato tanto, se ne è parlato a sproposito, è diventato una sorta di argomento ispiratore di importantissimi cicli, telefilm, pensate Sex and the City, pensate tutta una serie di donne singole che vivono più o meno felicemente la loro possibilità di essere fuori dagli schemi, fuori dalle regole, fuori dall'incasellamento che vorrebbe per la società un uomo sempre accanto a una donna. Beh, stavo pensando a questo, ci eravamo già messi con Paolo Corleoni alla ricerca di suggestioni sonore. Poi 5 secondi fa, mentre stavo andando la sigla, ho aperto il giornale e ho visto una notizia che mi fa aggiungere carne al fuoco, se si può parlare di carne in maniera rispettosa in questo caso. Questa ragazza americana, che in un intero paginone del giornale, avrebbe messo all'asta la propria verginità, e già l'asta è arrivata alla cospicua cifra di 5 milioni, per finanziarsi un master universitario in psicologia della famiglia e del matrimonio. Beh, mi sembra un paradosso meraviglioso. Una ragazza sola, con la sorella che esercita la prostituzione nel più famoso luogo di tolleranza d'America, che è il Bunny Ranch in Nevada. Ci fanno addirittura un reality show in televisione dove c'è la giornata tipo del cliente e della professionista in questo Bunny Ranch. Qui ci lavora la sorella di questa ragazza, di questa Natalie Dylan, che mi sembra che però sia soltanto uno pseudonimo, e ha suggerito alla sorella: facciamo un'asta e mettiamo la tua preziosa verginità, visto che hai 22 anni, all'asta, e otterremo probabilmente un piccolo aiutino per fare il suo importante corso universitario in psicologia della famiglia e del matrimonio. Beh, adesso che è arrivata a 5 milioni, che è una cifra grossa, sta cominciando a pensare al rialzo. È bello che prima di sottoporsi naturalmente all'asta si è fatta fare un esame molto accurato da un medico per garantire la sua verginità, e addirittura si è sottoposta più volte, 2 volte, al test della macchina della verità. Donne sole che state in ascolto, voi che in questo momento vi state infilando le scarpe con il tacchetto per far bella figura, voi che già avete compiuto il percorso rituale che vi porta nel luogo del lavoro e probabilmente ci state sentendo perché siete affezionate, perché ci volete bene, perché volete rinunciare comunque, gettare un orecchio a chi ogni mattina si occupa di voi con affetto, con dedizione e con grande ammirazione. Cosa ne dite di questa notizia della ragazza del Nevada? Per voi è molto meno semplice. E cosa mettete voi in palio? La vostra verginità? Ma chi crederà mai che voi siate vergini di qualunque tipo di attrattiva, di caratteristica fisiologica, anatomica, visto se donne singole? Cosa significa essere considerata donna singola? Singola può essere la donna che vive sola, la donna che ha un fidanzato lontano, la donna che ha un ex marito, la donna che comunque non vuole uomini tra le scatole, ma gli uomini si insinuano comunque naturalmente nella sua vita, nei momenti peggiori, nei momenti in cui sono molesti e non ci sono, nei momenti in cui se ne avrebbe bisogno. 800 24 00 24. Cerco di prendermi cura di me e del mio mal di schiena. Faccio una vita sana, niente canne, niente alcol, sesso nemmeno a parlarne. Non avevo mai visto tanta solitudine, però è anche bello. L'altra sera mi è sembrato di sentire un colpo di tosse qua fuori. Questa ragazza che parla nulla a che fare con Natalie Dylan, non metterebbe nulla in palio se non il suo stipendio di maestra. Questo è un bel film di Carlo Mazzacurati di un paio di anni fa, La giusta distanza, la cui protagonista assomiglia molto alla tipologia di donna di cui vorremmo parlare oggi e che vorremmo far parlare oggi, se qualcuno di loro chiamerà all'800 24 00 24. È una ragazza sola, una piacente ragazza che va in un posto sperduto d'Italia, alle foci del Po, un piccolo paese, benestante, stanno tutti abbastanza bene, si respira quel tipico benessere della nostra provincia, fatto anche molto di sommerso, fatto molto anche di risorse nascoste che danno un agio esistenziale apparente, poco apparente, ma in realtà sostanzioso. Lei lì va a fare la maestra, arriva in un paese e naturalmente una donna sola, va a vivere sola, vive in una casa sola e quindi diventa immediatamente il centro dell'attenzione di tutti gli impuniti scapoloni del paese, di tutti i mariti del paese, insomma la donna sola diventa una facile preda e tutti devono capire, immaginare subito quale sia la sua attitudine verso la relazione con il mondo maschile. Cara Eva, dopo tutte le cose sgradevoli che mi sono successe in questi due giorni, l'apice l'ho toccato oggi. In gita sullo yacht del più ricco magnate della zona, noto anche come la piovra di conca d'albero. Questa qua è la leva del cambio, vedi? Uh-huh. Qui c'è la bussola, qua segna i contagiri, quella lì è la pressione dell'olio, quella lì è la temperatura dell'acqua. Vabbè, basta. Beh, dai, in fondo hai fatto un bel giro in mare. E se non facevi tanto la sostenuta, magari ti portava anche in pizzeria. Io invece sono stata in un wine bar molto figo con uno del master. Purtroppo lui si è dimenticato il portafoglio a casa e così ho dovuto pagare io il conto, un sacco di soldi. Poi, siccome aveva la macchina in rosso, gli ho dovuto dare anche 10 euro per la benzina. E per finire, sotto casa, ha tentato di baciarmi. Ero ubriachissima. E speravo che mi venisse da vomitare. Così gli sporcavo la sua camicia al Floren e tutti i sedili della macchina. Il resto sono solo enoteche, aziende, degustazioni. Questa è la corrispondenza che ha quotidianamente Mara via chat o via email con una sua collega, anche lei donna singola però di città. È la donna singola di città, la donna singola di provincia che si confrontano le reciproche esperienze, che poi assomigliano un po', si combaciano, c'è sempre questa sorta di rapporto con il mondo maschile, sempre abbastanza difficile, problematico. Quella lì nel paesino deve guardarsi dal ricastro del paese, al negoziante del paese che la porta a fare un giro sul motoscafo e poi le mette le mani addosso, la smanaccia, lei domanda: no, tu non sei già sposato? Sì, ma lo è sposato con una donna dell'est che ha trovato in un catalogo in internet, perché è un uomo moderno, quindi si è presa la bella moglie di rappresentanza, ma continua naturalmente a sentirsi in dovere di aggredire, di sedurre, ma per necessità, in maniera molto rozza, molto superficiale, molto grossolana, tutte le donne disponibili del suo piccolo reame. Invece quella che è immersa come con una professione carina, come si dice, in maniera terrificante, fa la sommelier, quindi gira nei locali notturni, ma anche lei ha a che fare con uomini sempre sfigati, sempre disattenti, sempre superficiali, sempre poco galanti, o galanti soltanto quando a loro serve, che sta lì, la porta fuori a cena, poi finge di non avere il portafoglio, o trascura di portarsi dietro i soldi per offrire la cena a una sua amica, e poi quando invece sotto casa, mezzo ubriaco, ci prova in maniera rozza, in maniera nemmeno troppo raffinata. Ecco, in questi due universi che si incontrano, poi per darvi più elementi, mentre vedo che già arrivano telefonate, segnalazioni su Facebook di punti di vista sulle donne singolari, arriva improvvisamente per lei l'amore. L'amore paradossalmente è rappresentato da quello che in una lettura stereotipata delle latitudini in cui lei si produce come maestra è esattamente l'opposto di ogni seduzione. È un immigrato che fa il meccanico, fa il carrozziere, però si innamora molto di lei, la segue, le fa un corteggiamento molto particolare, molto singolare, a cui lei non è abituata, sembra addirittura uno stalker, lo trova sotto casa soltanto perché la guardava, tanto la venerava. Alla fine capisce che questa, nella sua cultura molto diversa, contrastata, ha rinunciato lui ad avere una fidanzata che le imponeva la sua famiglia, quindi è evoluto rispetto allo schema tradizionale del suo luogo di provenienza, che lo vorrebbe appunto sposo preordinato con una sua cugina cucina lontana. Beh, alla fine si innamora e decide di concedere a questo ragazzo, così fuori di ogni schema, quello che tutti gli altri avrebbero preteso di ottenere solo per il fatto che lei è una singola. In quel momento mi andava e non ho pensato a niente. Anzi, l'unica cosa che ho pensato è stata: meno male che ieri mi sono fatta la ceretta. L'estetista è la fidanzata di Guido, sai quello carino che guida la corriera? Si sposano a febbraio e stanno mettendo su casa. A sentirla parlare mi è venuta un po' di invidia. Trovare un bravo ragazzo, sposarlo, fare bambini e la domenica andare tutti insieme al centro commerciale. Peccato che io non sono così. Ha ragione mia madre, finirò zitella. Parlare mi è venuta un po' di invidia. Ecco, abbiamo già una prima singola al telefono. Melania, buongiorno. Ciao Gianluca. Allora, singola metropolitana però, art director in un'agenzia pubblicitaria a Milano, quindi sì. Tu rappresenti il modello più vicino al modello stereotipato rappresentato dalla fiction televisiva. Tu vivi come vivono le fortunate signore, signore ormai hanno una certa età, sono sull'orlo della pensione di Sex and the City? Beh, in parte mi piacerebbe assomigliare a quel modello, anche se è un po' troppo patinato. In realtà la mia vita è fatta anche di cose difficili, dure, insomma, non solo legate all'affettività. Che cosa ti posso dire? Essere single è una scelta? Non lo so se è una scelta, ma lo diventa sicuramente. Diventa, innanzitutto parte come una necessità, perché se vuoi lavorare devi spostarti dalla tua città d'origine, necessariamente non ti puoi portare dietro bagagli, baracca, burattini, amori in corso, vai da sola naturalmente. Certo. Gli amori passati si estinguono necessariamente e quelli nuovi però si alimentano in una condizione diversa della donna che vive sola. Ora, dal punto di vista maschile, una donna che vive sola è un insieme di attrattive che tu puoi immaginarti. Innanzitutto non c'è la necessità di trovare un luogo fisico e la logistica nel rapporto seduttivo è importantissima, in cui certo, doverla necessariamente portare. La donna importa l'uomo a casa propria, la singola ha questa sorta di, è come una chiocciolina con la sua casetta sempre dietro, vista nell'immaginario degli uomini. Ecco, la tua casetta è molto accessibile secondo te? Assolutamente no, anzi ti dirò la verità, mi piacerebbe che lo fosse, ma faccio fatica a gestirmi, nel senso che la mia casa rappresenta la mia anima, è un posto molto accogliente, però non è concesso a tutti. La ritengo una grande metafora di me stessa, per cui prima di superare quella soglia ce ne vuole un po', ma non è un discorso legato alla modernità, parliamo chiaramente di aspetti sessuali, ma anche una semplice cena, un semplice invito a cena, insomma, ci metto un po' di tempo prima di affrontare. Dal tuo punto di vista, una donna che vive sola, che chiede a un uomo passa pure a casa mia, questo necessariamente corrisponde nell'immaginario, nell'attesa di un uomo, a un invito a una frequentazione più completa e profonda o semplicemente? Assolutamente. Ah sì, quindi se lo fai entrare in casa devi assolutamente, assolutamente. Poi stenderti. E appunto, è quella la cosa, la tanto vale trovare un luogo più neutro, che non è né casa sua né casa tua, anche se, voglio dire, questa è già una fase, diciamo, successiva. La condizione di single non ha problemi in questo senso, ma ha problemi nel momento in cui conosci una persona ancora prima di invitarla a casa. Parliamo di... E qual è la prima domanda che viene, la prima domanda che viene fatta a una persona che nell'area si sa che può essere una donna, non dico disponibile, perlomeno senza nessun ostacolo a una relazione? La prima domanda quando ci si inconosce? Sì. Bah, non ce n'è una. Devo dire che io ho avuto esperienze, ho esperienze veramente diverse, non ricado in un cliché. L'unico cliché è quello, vabbè, sessuale, nel senso che è chiaro che l'invito a cena viene richiesto a volte, no? Poi se sei bravo a cucinare come me. Ma perché per fare l'amore bisogna sempre mangiare prima? Questo ancora non, all'età di 50 anni non me lo sono mai ancora chiesto. Ma no, ma perché si crea un'atmosfera carina, un buon vino, dai. Ma c'è bisogno di ingozzarsi con lo stomaco pieno e col sapore di cipolla in bocca? Non lo so, questa è la mia particolare... È una tua... Sì, non, ancora non mi spiego perché invitare una persona a cena deve equivalere poi a dire poi andiamo anche a letto. No, non è scontato, però insomma il cibo ha una forte carica seduttiva, si chiamano momenti di forte erotismo, insomma non io lo vedo come un preambolo, ma chiaramente è una cosa soggettiva, insomma. Quindi tu sei anche costretta, in realtà se inviti a casa puoi anche a cucinare. No, io se invito a casa cucino perché sono una grande amante della casa, della cucina, insomma anche delle tradizioni, se vuoi, quindi ho questo doppio aspetto. Io mi definisco sempre, per anni gli uomini hanno voluto la donna moglie e puttana, sono una potenziale padella e abat-jour, non so come dire. Dalla padella alla abat-jour? Dalla padella alla abat-jour. Sì, perché quando avviene il contrario è una fase sintomatica della decadenza. Oddio. Lo so, è così purtroppo. Va bene, Melania, io ti ringrazio, tu ci hai dato una prima testimonianza di donna singola metropolitana e adesso invece ascoltiamo una tua collega che vive la stessa situazione ma in un ambito diverso, quello di provincia. Allora, io sono una single, almeno in teoria, preferisco definirmi una donna senza un uomo, cioè senza un uomo fisso, perché single è un termine un po' impegnativo e fa pensare a donne che affrontano il mondo sui tacchi a spillo e io non sono proprio così. Sei single se vivi, che ne so, a New York, a Londra, a Milano, già Roma fa un po' meno single, e poi fai un lavoro tipo l'avvocato, l'architetto, la scrittrice famosa, hai un appartamento in centro, indossi dei vestiti bellissimi e firmatissimi, frequenti i migliori locali e la gente più chic della città. E poi ogni mattina sei bellissima quando ti svegli, anche se hai dormito solo 3 ore. Naturalmente, al di fuori del clima vertiginoso, della capacità di mimesi tipica di una grande città, quando si vive in una città piccola crescono i problemi. Innanzitutto non è così semplice, così immediato, così neutrale fare cenette a casa, invitare persone a casa di qualunque tipo. Naturalmente questo corrisponde comunque, volente o nolente, sia nella più avanzata e nella più anticonformista delle province italiane, potremmo collocare nel Triveneto, nel meraviglioso Nord-Est, accade comunque che la donna che vive sola si invita persone a casa, è una donna che comunque deve dimostrare quella casa sia comunque aperta a chiunque faccia desiderio di accedere. Io faccio la maestra, vivo in un paese di 1000 abitanti, un solo bar. Per raggiungere un locale decente devo farmi 40 chilometri di nulla fra le colline abruzzesi. Se mi metto i tacchi ho un mal di schiena dopo un po' e devo fare bene i conti di quanto tempo resterò in piedi. E quando mi sveglio al mattino, se ho dormito meno di 7 ore, proprio non mi si può guardare. Quindi più che single direi zitella. E le mie amiche sposate invece preferiscono definirmi una donna libera, e libera è una visione ottimista, no? Hai tutte le possibilità, tutto ti deve succedere e quindi sei lì che attraversi speranzosa tutti gli oceani infiniti delle tue possibilità, però insomma ogni tanto vorresti uno scoglio a cui approdare, perché i panorami poi non è che siano così, così esaltanti. 800 24 00 24, la testimonianza della singola di campagna, la singola di provincia, comincia drammaticamente a mettere l'accento su quelli che sono gli elementi esteriori che a lei mancano. Innanzitutto la necessità di essere sempre in tiro, la donna deve essere sempre in tiro, ma se la donna deve camminare su strade disagiate non può essere in tiro. La donna deve comunque essere splendida, libera nel rimpianto quasi invidioso della donna sposata, ma allo stesso tempo lei vorrebbe avere uno scoglio in cui ogni tanto poter approdare, ma gli scogli dalle sue parti evidentemente sono tutti abbastanza scivolosi. Quando per qualche ragione, anche sacrosanta ragione, una donna senza un uomo come me si arrabbia e cerca di non farsi mettere i piedi sopra da chiunque, diventa acida. Tutti hanno il diritto di arrabbiarsi tranne noi, perché niente, ci definiscono immediatamente acida. Hai visto che acida quella è? Per forza non fa sesso mai. Acida quindi secondo il luogo comune lo diventi perché non fai sesso, però se invece sesso lo fai e se lo dici che lo fai, il problema non si risolve. In quel momento ti trasformi immediatamente in una puttana. Voi direte che questa è una visione particolare, una visione anche lievemente maliziosa, ma guardate, da tutto quello che ci è stato detto finora, sia la singola di città che dalla singola di campagna, pare che la disponibilità sessuale sia l'unico metro con cui viene misurata la donna sola. A volte capita di frequentare qualcuno, di uscire con un uomo, e se questo tipo è... non è proprio un signore, oppure è curioso, è pettegolo, oppure è un romantico, perché ci sono i romantici che credono che bisogna dirsi proprio tutto, questa malattia ce l'abbiamo anche noi donne veramente, e quindi esce con un uomo e a un certo punto ti chiede da quanto tempo non fai sesso, e questa domanda è micidiale, non esiste una risposta giusta a questa domanda, qualunque cosa risponderai sarai inquadrata immediatamente in una delle seguenti categorie: 1. Single, puttana e pertanto assolutamente inaffidabile, con la quale si può avere un'avventura, cioè, ma non una storia seria. 2. Single alla ricerca disperata di un fidanzato marito e quindi dalla quale scappare a gambe levate. 3. Zitella acida, pezzo di legno che avrebbe soltanto bisogno di fare sesso. Ecco, queste sono in maniera esemplificativa le categorie attraverso cui deve confrontarsi la donna singola nel giudizio degli uomini e nel giudizio anche delle altre donne. 800 24 00 24, nelle parti a seguire di questa trasmissione confronteremo con il vostro giudizio, la vostra esperienza, tutte e tre queste categorie: donna single disponibile, quindi da prendere per una botta via; donna single non disponibile, perché cerca una situazione fissa, quindi da colpire, da lambire e da fuggire via; donna single legnosa, perlomeno in una parte importante la sua anatomia, e quindi donna single semmai da castigare. 800 24 00 24, stiamo parlando della singolarità delle donne singole, non tanto singolarità in quanto rarità. Il mondo è pieno, le città sono piene, le province sono piene, c'è un'infinità di donne singole che vivono singolarmente la loro vita di donne, senza necessariamente un uomo accanto che ne tuteli comunque la sfera affettiva, la sfera emotiva e anche la sfera sessuale, anche perché sembra che poi il vero metro di paragone che ha la società nei confronti delle donne singole e quanto loro poi pratichino la loro attività lecita di avere rapporti amorosi con altre persone. Mi scrive Katia un termine che a lei piace molto: donne singole termoautonome e automunite. È una moderna e divertente definizione di questa specie di categoria di donne. Invece Federica mi dice: che quadretto tragico, sembra quasi una malattia. Poche donne sono singole per scelta propria, ma nell'attesa di un principe azzurro. Se poi non arriva, amen. E qua dice una cosa molto importante, anche molto grave, anche molto probabilmente è foriera di proteste, che la donna singola in realtà è una donna che è come incompleta, che aspetta comunque un uomo che la completi. È realmente così? Pensate se è realmente così? È una scelta assoluta, una scelta di felicità, è una scelta di ripiego quella di essere una donna singola. E dice: io giro con le amiche, sono reduce da un capodanno da principessa a Dubai, faccio parecchi incontri interessanti, cerco di approfittare della mia libertà nel miglior modo possibile. In questi ultimi 3 anni ho accumulato un sacco di storie da raccontare ai nipoti, quelli delle mie amiche. Abbiamo Alessandra. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Personalmente pensavo fosse un concetto da esplorare accanto a quello di donna singolo, come di donna che non ha un uomo accanto, piuttosto il fatto di essere single e singolari, nel senso di avere una personalità propria, a prescindere dall'avere o meno un uomo accanto. Cioè, ci sono donne che non hanno un uomo, sono singole, ma questa singolarità è un vuoto che cercano di colmare in qualche modo, e ci sono invece donne che hanno un uomo accanto e che comunque mantengono una loro singolarità, una loro personalità propria, un'identità. Quindi secondo lei la condizione di donna singola non necessariamente è sufficiente per far esprimere la singolarità, cioè sì, le caratteristiche personali, sì, di una donna che molte volte la personalità si vede soffocata in un rapporto di coppia continuo? Scusi? Diciamo che molte volte questa singolarità deve cedere ad alcuni compromessi quando, sì, si vive, sì, un rapporto di coppia. Infatti, però comunque sia si mantiene la propria identità anche con una persona accanto, con un partner, mentre ci sono donne che l'assenza del partner la vivono come un vuoto e quindi, pur essendo singole, non sono singolari. Ecco, della sua esperienza, lei cosa si considera, una donna singolare o una donna singola? Un percorso fatto di diciamo, c'è stata un'evoluzione, per cui sicuramente quando si è più giovani si è singole, nel senso che si cerca una propria identità, se si è fortunati la si trova e quindi si completa questo percorso, altrimenti ci vuole più tempo, se si è totalmente sfortunate non ci si arriva mai. E lei che punto è della strada? Ma buono, diciamo che c'è sempre modo di perfezionarsi. Sì, non facciamo così sibillini, sennò sembra che parliamo di cose astratte. No, sinceramente ritengo di aver raggiunto un buon equilibrio, di aver trovato... Ecco, qual è allora la formula dell'equilibrio, visto che la disastrosa equazione della sua collega con cui abbiamo chiuso la prima parte, cioè, sono tre le categorie. Io non la vedo sinceramente in quella maniera, è una cosa abbastanza, credo sia una visione troppo semplicistica. Personalmente credo che... è bello potersi sentire singolari, cioè credere di avere una propria personalità, difenderla, forse gli altri la percepiscono con intensità diversa, però ecco, il fatto di sentirsi singoli, cioè di credere in quelli che sono i propri valori, costruirsi una propria identità, e talvolta anche... Sì, però tante volte è una bella fatica, ma se il mondo non se ne accorge... Noi facciamo le ombre cinesi, però la sera davanti a una candela accesa a casa propria da soli, è un po' più complesso. No, è importante che se ne accorgano le persone che accanto a noi e per noi stessi rappresentano dei punti di riferimento. Ma già quella mi pare una conquista abbastanza difficile. Lo so, infatti, ci vuole tempo. Grazie e iniziamo con un'altra storia di un'altra donna singola che a puntate ci racconta quella che è la sua esperienza. Io ho 32 anni, abito a Roma, diciamo che mi sono innamorata dell'essere single, perché una volta ho letto un libro di Aldo Busi, spiegava bene cosa voleva dire essere single e quindi io da quel giorno ho deciso, beh, in effetti anch'io lo dovrei essere, dove diceva che si abitava da soli, ci si manteneva da soli, non c'erano mamma e papà, non c'era nessun tipo di accoppiamento nel senso così di dipendenza da qualcosa di esteriore e quindi così idealisticamente mi sono inoltrata in questo cammino. Jacopa è una singola metropolitana e apprende la sua vocazione a vivere felicemente la sua singolarità da un libro di Aldo Busi. Sembra paradossale, ma Aldo Busi ha dato la scintilla per comprendere a Jacopa, che è la nostra ascoltatrice, ci racconta la sua storia, quanto ci possono essere vantaggi nel vivere intensamente una vita singolare. Forse se avesse letto ciò che scrive adesso Maurizio avrebbe cambiato idea. Maurizio scrive su Facebook: le donne singole vivono sempre con un gatto, bevono ettolitri di tè e spesso sono vegetariane. Queste sono le sue categorie di donna singola. Da donna biologica è un po' più difficile essere single perché viene capito subito come un essere a disposizione, cioè la single lungi dall'essere una donna emancipata, libera, che fa un modello ideale, invece è una abbastanza così sola, disperata, in cerca, che si accontenterebbe di tutto, anche dello scrondo, pur di svoltare una serata, e quindi vieni presa d'assedio. Sono molto più strategici, ho notato, cioè vedono quanti messaggi ti arrivano, se ti arrivano telefonate, vedono che uno abita da sola, lo capiscono. Se non te lo chiedono vuol dire che loro per primi sono già accoppiati. Vedo che il mondo è bello vario. Ieri sera ho raccolto una disperata confessione di una mia amica che mi diceva che l'ennesimo uomo a cui lei ha chiaramente, palesemente dimostrato la sua disponibilità a avere una storia di qualunque tipo, anche una storia semplicemente fisica, è scappato via a gambe levate. Ma proprio perché ha variegato il mondo, vi leggo anche il messaggio di Hermes che va a rimettere il dito in un altro profondo luogo comune. Ci vorrebbe sapere, visto che si è aperto un dibattito su Facebook fra donne singole e uomini curiosi della singolarità delle donne singole, dimmi un'altra cosa. Si sente spesso l'espressione secondo cui nella sfera della fisicità i maschi hanno delle esigenze, diciamo le nostre nonne, per giustificare l'esistenza del casino a cui andavano i mariti. Convinzione che mi ha sempre disturbato parecchio, mi sembra una sorta di approccio animalesco, è giusto Hermes. Sulle equivalenti eventuali esigenze delle singole mi sono però spesso interrogato, ma ho trovato risposte di solito piuttosto evasive. Boh, qualcuna di voi che vive singolarmente può dare risposta a Hermes di come faccia la donna singola a lenire le fitte atroci profonde delle proprie esigenze carnali. 800240024. Può essere un maschio a caccia già accoppiato con moglie o fidanzata ufficiale o altri impicci, e allora a quel punto a lui non gliene importa niente se tu sei single o meno, anzi gli fa quasi paura scoprire che sei single perché capisce che poi tu avresti un'altra posizione. Oppure invece c'è quello lì proprio senza vincoli e senza legami, però quello già è una rarità, quindi a me single non dispiace nemmeno incontrare uno che non sia vincolato da sentimenti o da legami affettivi. 800240024, cerchiamo di vedere anche il mondo degli uomini visto con gli occhi delle donne singolari, ma cerchiamo anche di sentire cosa ne dicono gli uomini. Alessio, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei ha ragione. Cadiamo molto spesso in luoghi comuni quando parliamo di queste cose, però è il vero problema lancinante oggi di una fetta importante della società, quello della relazione con persone che sono anche molto disponibili ad avere relazioni e molte volte si intrecciano nei loro desideri, nelle loro attese con persone che già hanno relazioni in piedi. Questo voleva dire lei? Ma no, appunto, si tende un attimino ad avere questo stereotipo un po' di... anche in altri argomenti oggi, no? E anche chi, secondo me, non ce l'ha, se lo crea un po' perché si seguono le masse, eccetera. Allora ci sorprenda lei con qualcosa che non sia stereotipato su questo tema. Prego? Ci sorprenda lei con qualcosa che non sia un luogo comune su questo tema. Ma sorprenda, non so, io ad esempio... sono quasi 50 anni, sono ritornato singolo perché mi sono separato dopo 20 rotti anni di matrimonio, quindi ho conosciuto parecchie single in questo senso e in parte lo sono diventato anch'io. E il fatto di sorprendere, ma ci sono delle rarissime persone secondo me che seguono, secondo me ha ragione ancora, quell'istinto, quell'istintualità che noi abbiamo perso perché vogliamo razionalizzare in modo eccessivo, no? E alla fin fine magari sbagliano, però, oddio, forse qualcosa tentano, fanno. Viceversa, un po' le altre testimonianze che ho sentito, un po' nella realtà è così, no? C'è questa sorta di timore, di pericolo, di mettersi in gioco, eccetera, e si trasforma in delle piccole Sherlock Holmes, chi vuole indagare, chi vuole sapere, chi vuole... e quindi non porta da nessuna parte. Beh, certo, è un universo molte volte che si sa che può dare sorprese, per questo attira questo tipo di universo, ma uno ha giustamente, a volte lecitamente, è timore che queste sorprese poi possano compromettere la propria vita. Insomma, tutti vorrebbero avere la botte piena e la moglie ubriaca o qualcosa del genere. Ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni del traffico. 80024, il dilemma e l'equivoco molte volte si crea attorno alla singolarità delle donne singole. Quando sei single, mai accettare inviti per andare a bere qualcosa dopo. Io sono stata illuminata dalla lettura di un libro di Franco Califano che spiegava ai suoi colleghi tutte le tecniche, le cose. Allora io me lo sono letto, così sono preparata e li vedo, no? Allora di solito è sempre meglio se qualcuno ti invita così a pranzo oppure a una cena, ma regolare. Invece già quelli che partono con il caffè oppure con il drink dopo vuol dire che insomma devi stare attenta, perché o in macchina o da qualche parte partiranno all'attacco. Vedete che c'è una profonda interpretazione delle nostre più felici menti creative e dei mostri della letteratura italiana, da Aldo Busi a Franco Califano. Entrambi rappresentano due maniere antitetiche di suggerire alle donne come gestire la propria singolarità. Busi ha dato istruzioni per acquisire coscienza del proprio diritto ad autodeterminarsi come donna singola, la prima ascoltatrice, Califano mette in guardia quest'altra ascoltatrice su quelle che sono le tecniche bieche per riuscire a mettere un'altra tacca sul proprio Winchester quando si esce con una donna singola. Quindi mai andare con un uomo che ti invita a dopo. Ma io vivo un grosso pregiudizio, ho lungamente elencato e quintessenziato quali sono le caratteristiche segrete del Margarita, cocktail per cui che considero mia principale fonte di ispirazione, ma tutte le volte che provo ormai a offrire a un'amica un Margarita mi guardano come dire sei tu birbantello, chissà che vuoi farmi. L'elemento che più mi repelle, dici, della convivenza con un uomo? Penso nulla, a parte quelle cose che tutti sanno, tipo, non so, che va in bagno, si fa la barba e lascia un casino, oppure se sta male con 37 di febbre sembra che debba andare all'ospedale, mentre tu invece magari con 39 stai lì a passare l'aspirapolvere. Queste cose qui, insomma, quindi sono cose che sono accettabili, voglio dire, anche le donne hanno un miliardo di difetti e li puoi superare. Cominciamo a entrare nel campo delle istruzioni per l'uso. Abbiamo al telefono Marianna. Marianna, buongiorno. Buongiorno. Nella tua vita di felice singola metropolitana, poi mi sembra a tempo determinato o qualcosa del genere, cosa trovi di saggio in quello che dice la nostra ascoltatrice? No, ma in realtà io proponevo un modello diverso, che è quella della single davvero per scelta, perché a proposito di singolarità, intesa anche come originalità, la mia esperienza passata era quella di una single in coppia. No, questa devi spiegarmela bene, che vuol dire? No, da non confondere con né con la relazione a distanza né con la famosa coppia aperta o la relazione complicata di facebookiana memoria. Cos'è allora? È una coppia a tutti gli effetti, quindi con tutti i vincoli presunti, poi bisogna vedere se sono reali, ma sono presunti vincoli di mutua assistenza, fedeltà, lealtà, eccetera, tutto quello che ci piace pensare di una coppia, ma con tutti gli spazi dei single. Beh, non vedo i vantaggi però di questa cosa, scusami. Cosa? Non vedo i vantaggi, perché il patto di fedeltà e di reciprocità annulla la vertigine di vivere da soli. Tanto vale stare insieme, no? È anche meglio. No, perché il bello della singolitudine, almeno per come la vedo io, è avere i propri spazi, non avere... sì, ma avere i propri spazi senza avere, cosa? Però senza avere la spregiudicatezza di poterli gestire comunque in qualunque maniera, meglio avere una persona che ti scalda i piedi quando è freddo, allora, scusa, con tutti i limiti. Quando la vuoi c'è, è quello il bello. Sì, ma quando non la vuoi devi comunque startene al freddo da solo, non è poi trovare uno scaldino alternativo. Ma lo scegli. No, ma è la soluzione ideale, non porta assolutamente a nulla, nel senso che non si costruisce nulla, è una situazione assolutamente transitoria. Che può durare finché non scatta l'orologio biologico, finché uno non si stufa di tornare a casa e aver scelto male quella sera e quindi scaldarsi i piedi da soli. Però è la cosa che si avvicina di più al modello Sex and the City, perché a quel punto quando esci con le amiche, al di là di andare a comprare le Manolo Blahnik, che non conosco molte persone che lo fanno per ammazzare il tempo, ma quando esci con le amiche o esci per fare la serata cazzeggiona con le amiche, lo fai davvero per scelta e non perché non c'è nessuno che ti porta fuori o non hai contattato nessuno. È sempre di riserva comunque il tuo legittimo partner, che puoi sempre usare comunque come accompagnatore. Io ti ho visto così un po' triste, non è veramente una riserva. È una ma infatti il modello è tristissimo, l'ho detto all'inizio. Cosa? Il modello che hai proposto è molto triste, perché Elide toglie i punti. Ma ti lascia aperte tutte le possibilità. Sì, ma le uccide anche tutte, però ognuno ha il suo punto di vista. Grazie, sentiamo Giuditta. Giuditta. Pronto? Giuditta, sì, ti sto ascoltando. Ascolta, niente, io tramite la tua trasmissione ho scoperto gioiosamente di essere una strega. Sì, non sei la prima, mi hanno mandato maledizioni. Le persone volano, quindi sono per forza una single. È automatico, io credo che nello spirito delle single ci siano sempre questi fatti di essere streghe, di essere fantasiose, così. O perlomeno questo noi uomini immaginiamo, speriamo, ci illudiamo che sia così, quando in tempi passati, nella mia esperienza. Sì, sì, sto sentendo, sei strega, ma hai dei problemi di udito. Io ti sto sentendo benissimo. Allora, cosa volevi dire? In conclusione, in quanto strega, in quanto singolo, avete veramente quella singolarità che vi rende diverse? Certo, io presento un'attività artistica che mi fa essere piena di gioia, amo gli animali, sono... E poi soprattutto sono strega, è quello che fa. Va bene, sei anche allegra, questo ci fa molto piacere, quindi questa è una sintomatico che stare soli non sempre porta mestizia e porta depressione. Manuela, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo fare un intervento di questo tipo, nel senso che io non sono più una ragazzina, ho 52 anni, per cui ho vissuto a suo tempo gli anni 70, insomma, la liberazione della donna, queste cose qua. Sentendo questi interventi mi viene un po' di tristezza, nel senso che secondo me si corre il rischio un'altra volta di dividere le persone per categorie. Però non abbiamo altra maniera in fondo per mettere in memoria le nostre esperienze che creare delle categorie, è inutile illuderci. Comunque sì, ti sto ascoltando. Allora, io voglio dire, vorrei dire questo, basato proprio sulla mia esperienza. Noi siamo delle persone, quindi il fatto di considerarci delle persone vuol dire anche cercare di individuare la nostra identità. Quindi io credo... Sì, ma tradotto in termini legati alla tua esperienza personale. Allora, io sono single, sono stata sposata, ho dei figli e in questo momento sono una donna sola, nel senso che non ho un compagno. Però tutta questa... Se volessimo fare una categoria, sei la donna separata, ecco. Chi è lei? È una separata. Sì. Ok, però ad un certo punto io credo che sia importante nel percorso delle donne il fatto di essere sole, possa diventare come una miniera. Vabbè, tu sei contenta di stare in questa miniera? Come ci vivi? Mi è costata tanta fatica, però credo di essere riuscita a essere una persona indipendente al di là delle categorie. Quindi vivi felice la tua singolarità? Sì. Va bene, sono contento per te. Vincenzo invece, Vincenzo divorziato, single con un figlio, non c'entra niente perché è un maschio, ma vediamo se ha qualcosa da dire sulla categoria delle sue colleghe singole. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno. Ecco, l'ascoltatrice ti ha preceduto, ha cercato, girandoci un po' intorno, di dire che in fondo, uscendo da una situazione matrimoniale naufragata, si riacquista dignità e consapevolezza vivendo una tranquilla, serena, se può essere possibile, vita da single. Vediamo il tuo punto di vista. Sì, in parte... Però parliamo di donne questa mattina, non te lo dimentico. Sì, in parte condivido questo, però per le donne, nello specifico, volevo dire che in realtà questo stereotipo che gli uomini scappano, ma io potrei dire per le donne questo fatto, cioè non è così che le donne sono alla ricerca e disperate di trovare uno che gentilmente li approccia e vuole fare magari un incontro e quant'altro. Non ti risulta te? Beh, ti devo dire le mie esperienze, queste donne così che si vantano che noi scappiamo alla prima, diciamo, approccio così un po' più... Cioè tu vorresti dire, io non scapperei affatto, e averne, questo è il problema. Ma sì, esatto. Certo. Lo so, ma... non sempre il destino, la fatalità, la nostra quotidianità ci mette in contatto con le persone che vorremmo incontrare. Ti auguro di incontrare l'amica mia che disperatamente ieri sera si è confidata raccontandomi degli uomini che fuggono, così magari vi incontrerete e sarete felici. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.